Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora temi estivi, temi di vacanza, di viaggio al centro del nostro secondo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Risalutiamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. È cronaca abituale dei TG, dei giornali radio estivi, parlare soprattutto per i fine settimana di bollini di vario colore: verde se il traffico è regolare, giallo, rosso o addirittura nero. Quest'anno praticamente di bollino nero credo ce ne sia forse uno all'inizio di agosto, forse nemmeno quello. Cosa vi risulta? Sì, come ha detto Mirko, quest'anno, proprio a conferma di quella che è la situazione in cui sta imperversando il nostro paese, coinvolgendo sempre più le famiglie italiane, quelle che sono delle previsioni di traffico nelle prossime settimane, come ha detto te, ci saranno dei giorni caldi da bollino rosso, ma le previsioni, almeno annunciate così dal Viminale, non fanno certo credere a bollini neri come negli anni trascorsi eravamo abituati ad assistere in certi periodi dell'anno. Certamente, ecco, è una previsione che viene fatta, che saremmo felici se questa venisse smentita, ma fino ad oggi vedo che sostanzialmente, a parte un po' i pendolari alla domenica che vanno per le spiagge con le varie note e code, sostanzialmente non si potrà parlare, a detta anche nostra, di bollini neri. Ecco, l'anno scorso era l'inizio di agosto, ci fu sì un po' di traffico più intenso, quasi nero insomma, ma solamente per mezza giornata. Invece ricordo di estati in cui praticamente da metà luglio fino a dopo Ferragosto ogni weekend le autostrade, perché i bollini, ricordiamo, sono calcolati sul traffico autostradale e non sulla viabilità ordinaria, giusto? I bollini quest'anno sono molto, molto più scorrevoli. Giusto, e soprattutto a caratterizzare il traffico saranno, come abbiamo detto, i pendolari che purtroppo mai come quest'anno poi hanno rinunciato alle ferie, ma cercheranno magari di rimediare qualche giorno facendo un po', andando un po' avanti e indietro per località balneari vicino a cui ciascuno abita. Le famiglie quest'anno nella rinuncia alle ferie hanno trovato certamente uno dei motivi importanti a cui dover certamente rinunciare per far fronte a quelle che saranno anche le spese che coincideranno dall'apertura delle scuole, a tutta una discussione aperta per quello che accadrà nei prossimi mesi, perché il governo ad oggi ancora sta facendo esitare degli importanti provvedimenti e questo crea molta ansia e pessimismo nelle famiglie, ma soprattutto, come abbiamo detto, le famiglie non hanno più i soldi e non sono riuscite a risparmiare per poter andare in vacanza, e questo ricordiamo anche un'importante indagine in cui addirittura una persona su tre hanno detto che quest'anno per la prima volta non andranno in vacanza, quindi addirittura non si parla solo di accorciare la durata delle vacanze. Poi, per quanto riguarda certamente i periodi critici, ricordiamo che sarà sicuramente sabato del 3 agosto e anche probabilmente ci sarà un bel bollino rosso l'ultima settimana di luglio, per cui il consumatore sa che insomma prima di mettersi in vacanza o in viaggio dovrà un attimino informarsi e soprattutto valutare un orario rispetto a un altro più conveniente. Ecco, anche se chiaramente ci sono dei punti critici, penso alle, appunto, alle zone di Riviera, quella veneta, quella romagnola, il punto di Bologna per chi si sposta verso il centro e il sud Italia. Ma tu citavi adesso le partenze intelligenti che si citavano una volta quando c'era appunto da regolare un flusso di traffico molto forte e tutto concentrato. Qui o siamo diventati tutti molto intelligenti per cui partiamo in giorni diversi, oppure a quanto pare non partiamo proprio. È più probabile non partire proprio rispetto agli anni precedenti. Poi, come abbiamo detto, ci sono importanti strumenti come anche internet e i giornali radio, la radio, che permettono comunque al consumatore di informarsi, quindi questo permette comunque alle persone a poter organizzarsi bene con la partenza. Soprattutto ci sono anche dei satellitari che oggi sia sui telefonini che sulle auto o sui dispositivi danno comunque delle informazioni aggiornate su quella che è la reale situazione del traffico, e poi il nostro guru come Adico, ecco, comunque le persone possono andare qualche giorno in vacanza e magari, ecco, prestare sempre qualche accorgimento anche per quanto riguarda il viaggio, soprattutto evitare le ore più calde, sapere che viaggiare con il fresco magari per meglio tenere il condizionatore della macchina spento risparmiare circa un 20%, e verificare un attimino bene lo stato dei pneumatici e dei freni per chi utilizza l'auto, mentre per chi utilizza le compagnie aeree, i treni o le agenzie di viaggio, ecco, leggere attentamente le condizioni contrattuali e sapere che comunque Radico è sempre disponibile per dare qualsiasi informazione prima della partenza, ma anche dopo, qualora che il consumatore rimanga coinvolto su situazioni che purtroppo immancabilmente, come tutte le estate, capitano e vanno a ledere quelli che insomma sono quei principi in cui le ferie devono salvaguardare l'integrità non solo fisica ma anche psicologica di chi ha lavorato un anno e ha tanto aspettato questo agognato riposo. Un riposo agognato per chi ancora ha magari un'attività, un introito di reddito che si possa godere qualche giorno. Tendenzialmente mi pare di leggere dai dati che noi italiani continuiamo a preferire il mare rispetto ad altre destinazioni, giusto? Sì, il mare nel periodo estivo fa sempre la parte da leone e quindi anche quest'anno comunque nella crisi si è confermata, poi rimane sempre la montagna comunque e dopo le città d'arte, l'Italia più dell'estero e soprattutto vediamo che comunque le persone, ecco, in questo momento di crisi cercano sempre delle soluzioni anche più simpatiche e più furbe rispetto ad altri anni dove prima magari si andava più disinvoltamente in albergo, ma si cerca anche tramite internet delle soluzioni più economiche, si cercano i bed and breakfast, si cercano gli agriturismo, gli appartamenti, la casa degli amici e qualcuno addirittura anche lo scambio della casa, che insomma ha permesso fare qualcosa di molto carino senza sborsare soldi. Iniziative e temi di cui torneremo a parlare anche nei prossimi appuntamenti. Intanto grazie all'Adico, al presidente Carlo Garofolini, e buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.